Ed eccoci di nuovo in voce. Io sono Andrea, sono in compagnia di Marco e Chiara. Stasera ci occuperemo di che cosa? Di dissesto idrogeologico. Dissesto idrogeologico è un nostro cavallo di battaglia. Abbiamo parlato di tanti temi in questa stagione. Abbiamo parlato di terremoto, abbiamo parlato di alluvioni. E questa volta appunto parleremo di un tema che abbiamo già affrontato, il dissesto idrogeologico, le alluvioni di Genova. Lo faremo in compagnia di Gianmario, il presidente di Geologia Senza Frontiere Onlus, quindi il nostro super president. Ci senti, Gianmario? Sì, sì. Ciao, come stai? Grazie mille per avermi invitato. Tutto bene. Sei benvenuto. Allora oggi, come dicevo, parliamo della situazione di Genova, una situazione molto molto delicata, molto particolare, che diciamo da sempre caratterizza la città. Una delle peculiarità è un termine forse non troppo adeguato, comunque una delle caratteristiche è proprio la collocazione della città. La città è collocata in uno spazio molto stretto tra il mare e la montagna, con delle valli molto incise. E quindi insomma vogliamo parlare con te di che cosa è successo nel 2011, anche più recentemente. Forse il nome più noto anche ai non genovesi è la Val Bisagno. Sì, esattamente, come dicevi tu, Genova è stretta, allungata e diciamo che è, diciamo, si può dire confinata all'interno di due grossi super bacini idrografici, quello più a ponente che è la Val Polcevera e quello più a levante invece che è la Val Bisagno. Quindi diciamo la Val Bisagno interessa il levante cittadino, okay, che lo ha sempre interessato. Diciamo, ti interrompo subito perché diciamo bacino idrografico, quindi intendiamo che cosa? Intendiamo una valle, diciamo come se fosse un po' il raccoglitore di tutte le acque di un... Beh, sì, esatto, diciamo è il territorio, l'area territoriale, diciamo che è delimitata da spartiacque naturali, no? Che poi sono le linee di creste dei monti, no? Dove si raccolgono le acque superficiali che proprio piovono, battono su questa area territoriale e confluiscono, diciamo così, per gravità verso un corpo idrico recettore, no? In questo caso il Bisagno. Il torrente Bisagno. Quindi, idrografico, diciamo, si può definire in questa maniera qua. E quindi insomma il torrente Bisagno in questo caso insomma diciamo è un po' il protagonista della storia che stiamo per raccontare e il problema principale, che poi è diciamo il problema che si ripresenta anche in altre situazioni, un po' diciamo quella più recente di una città grande è stata Livorno, il fatto che questi torrenti e questi fiumi a carattere torrentizio attraversano proprio letteralmente la città. Esattamente, cioè questo carattere torrentizio definisce, individua delle peculiarità naturali che si racchiudono, diciamo, in fattori legati sia alla natura geologica appunto del territorio, ma anche a fattori quali le pendenze, gli orientamenti diversificati dei versanti e diciamo variazioni microclimatiche, variazioni vegetazionali, che fanno sì che poi anche i sottobacini che raccolgono verso l'asta principale abbiano un comportamento tipico di fiumare, cioè ovvero alternano momenti dove l'alveo è completamente asciutto a momenti dove invece a causa appunto di piogge torrentizie sono eventi di piena, no? E quindi la Val Bisagno ha una geomorfologia molto attiva, no? in costante evoluzione, dove ad oggi diciamo non prevale ancora quel profilo di equilibrio che si dovrebbe attendere, specie proprio appunto tra l'origine e la fine di ogni corso d'acqua, di ogni affluente che appunto affluisce verso un ricettore principale. E quindi insomma il carattere torrentizio, appunto come dicevi tu, a carattere tipo fiumara, che poi sono quelle, esatto, che si ricordano per esempio in Calabria, fanno sì, esatto, che uno si ritrovi un corso d'acqua in città che però tante volte non ha l'acqua, quindi diciamo questo, esatto, Esatto, e quindi anche dal punto di vista della percezione del rischio, cioè non si ha, si tende a sottovalutare tutto quello che dovrebbe essere materia di studio e di prevenzione di queste vallate, proprio perché è anche una visione un po' distorta poi di quello che invece certo. È realmente l'evoluzione stessa del vaccino. Se andiamo a vedere, per esempio, abbiamo una testimonianza vivente dentro la città, proprio nella parte terminale bassa della Val Bisagno, che è un ponte di Sant'Agata, che è un ponte originario romano. Pensa che questo ponte inizialmente in età romana aveva ben 300 arcate, era lungo ben 300 metri e aveva ben 28 arcate. Poi piano piano nei secoli è sempre stato sempre più devastato, diciamo, dalle alluvioni causate dal Bisagno. Caspita. Eppure, seppur toccato nell'alluvione storica del 1452, seppur distrutto nell'alluvione storica del 1822, e poi se andiamo a vedere anche l'alluvione del Novecento, quella molto famosa e purtroppo famosa per i morti, ben 44, dell'ottobre del 70, ma nel 92, fino ad arrivare a quelle dei giorni d'oggi, ecco, questo ponte pian piano è sempre stato più distrutto, tant'è vero che oggi ha soltanto delle 28 arcate originarie, ne ha soltanto due, no? Queste due ormai non è neanche più ormai chiaramente attraversabile. Quindi no? si può ipotizzare... Pur con queste testimonianze la popolazione comunque ancora ad oggi ha difficoltà nell'individuare la Val Bisagno come valle, diciamo, potenzialmente pericolosa dal punto di vista del dissesto idrogeologico. Caspita, ma il fatto che poi sia il ponte sia sempre più danneggiato nei secoli, oltre probabilmente a un aspetto di manutenzione, tu lo sottolineavi perché è molto probabile immaginare che siano peggiorati e si siano aggravati i fenomeni. Certo, diciamo che dall'inizio del Novecento, quindi con la realizzazione della rete ferroviaria e della stazione di Brignoli, di Genova Brignole, e poi col ventennio, diciamo, del ventennio fascista, e quindi con la realizzazione dei quartieri della Foce, del quartiere di San Fruttuoso, di Marassi, si è avuta la completa copertura impermeabilizzazione e copertura del tratto terminale del Bisagno. Poi, diciamo, finita la guerra, quindi negli anni 50, 60 e 70, c'è stata anche la massiccia urbanizzazione di tutte le vallate, cioè di tutti i sottobacini, no? Di tutti i pendii che configurano la Val Bisagno. E quindi sicuramente gli interventi antropici hanno riguardato tutto il Novecento e non hanno fatto altro sì che appunto incrementare problematiche legate appunto al dissesto. Quindi diciamo, mi inserisco solo perché è giusto sottolineare il fatto che sono peggiorati, si sono aggravati i fenomeni e spesso però sentiamo raccontare che assistiamo a un peggioramento dei fenomeni per quanto riguarda il carattere climatico, mentre in realtà questo però è anche strettamente legato a invece il carattere antropico e quindi la cementificazione. Certo, senza dubbio, cioè i pendii, i versanti della Val Bisagno sono stati completamente alterati dal punto di vista, diciamo, della regimentazione, della canalizzazione, dei flussi naturali, delle acque superficiali, i versanti stessi sono stati ulteriormente interessati da fenomeni franosi, localizzati. Quindi diciamo un aspetto generalizzato di... Certo. Chiaro. E quindi insomma per arrivare a noi, per arrivare a quello che per è successo arrivare a noi nel 2011 una grossa alluvione con 6 morti di cui 2 bambini, poi a distanza di 3 anni un'altra alluvione nel 2014 con un ulteriore morto, ed ecco lì che finalmente, diciamo, dal 2015 si svegliano, si avvia tutta quella progettazione un po' forse lasciata sempre nel cassetto di iniziali opere pubbliche per la mitigazione quantomeno della parte terminale del bacino del Bisagno. Certo. Quindi diciamo dal 2015 si sta lavorando nell'ampliamento della sezione idraulica mediante l'abbassamento dell'alveo, quindi anche la riduzione dello spessore della soletta di copertura che aveva il Bisagno stesso. C'è una particolare manutenzione anche agli argini esistenti, con incrementazione anche della sezione strutturale, stanno ricostruendo i setti, diversi setti, stanno riorganizzando i sottoservizi, insomma si stanno le opere più grosse sono i cosiddetti scolmatori. Il scolmatore del Rio Fereggiano, che poi è stato protagonista dell'alluvione del 2011, è già in esecuzione, se non sbaglio l'anno prossimo finirà. Okay. E si sta anche progettando, siamo in fase di progettazione definitiva, esecutiva del primo lotto anche dello scolmatore del vero e proprio del Bisagno stesso. Perché nella parte forse che può essere sfuggita è la caratteristica finale del Bisagno, che è molto importante sottolineare, il fatto che arrivi, diciamo, a cielo aperto fino a un certo punto della città. Esatto, fino al ponte di Sant'Agata. E poi, esatto, e poi per ricordare a chi appunto Genova non la conosce bene, in prossimità, anche un po' prima della stazione di Genova Brignole, quindi una stazione molto grande e molto importante, diciamo, viene tombato, viene quindi coperto, passa sotto la stazione e poi resta coperto fino al mare. Fino al mare, esattamente. È una cosa che appunto poi uno arriva a Genova non lo immagina, ma c'è un fiume, un torrente che appunto spesso è secco, ma poi quando arriva, abbiamo visto nelle immagini degli anni scorsi quanto sia imponente la portata, sta tutto sotto la strada. Esattamente. E su questo volevo farti una domanda, come se appunto non ci occupassimo, come non sapessi nulla di geologia, mi domando, ma i lavori che stanno facendo, il fatto di abbassare la sezione, quindi vuol dire appunto aumentare lo spazio dove può passare l'acqua e rinforzare tutta la campata soprastante, una persona che non capisce nulla potrebbe anche dire vabbè, ma forse aprirlo e renderlo di nuovo aperto a giorno, quindi alla luce del sole fino al mare, potrebbe essere una soluzione, perché lo chiudono di nuovo? Giustamente poi vedrete anche col progetto appunto che è stato realizzato col corpo del servizio civile di pace di Lega Ambiente, facendo anche domande ai non addetti, ai non tecnici, gran parte delle risposte sono proprio queste, insomma, cioè piuttosto che rivedere una copertura, piuttosto che appunto ampliare la sezione idraulica in questa maniera, ma perché non scoperchiamo, ma perché non andiamo a ricostruire quello, cioè non diamo più spazio al Bisagno come una volta, insomma è stato molto interessante questo studio che hanno portato avanti appunto le nostre compagne del corpo civile. Ho capito. Dell'ambiente. Quindi sì, insomma, c'è dibattito. Le persone insomma si chiedono, ma no, il principale problema è stata l'impermeabilizzazione, la cementificazione, insomma bisogna tornare. Beh, forse se si pensa all'aspetto più di percezione, verrebbe da dire dove possibile, se proprio si spendono somme importanti, forse restituire alla realtà poi, perché finché una cosa non la vedi, insomma fondamentalmente non esiste, no? Però vabbè, insomma hanno scelto questa strada sicuramente. Sì, io mi sento di dire che sono interventi importanti, che sicuramente se non risolveranno tutte le problematiche di città della vallata, quantomeno quelle del tratto terminale sicuramente verranno alleggerite. È chiaro che a questi interventi deve anche accompagnarsi tutto quello che è uno studio a larga scala di tutto il bacino, che prende in considerazione anche giustamente le parti più a monte del bacino stesso e che prende in considerazione anche questi fattori geomorfologici, quindi legati alle frane e anche a questi profili, diciamo, dei torrenti, dei corsi d'acqua, degli affluenti, che ad oggi non hanno un equilibrio, ecco, sono in costante evoluzione, ecco. Quindi ecco, questi interventi accompagnati anche da studi continui sull'evoluzione stessa geomorfologica del bacino sicuramente farebbero ulteriormente del bene, ecco, alla cittadinanza. Giamma, una domanda ti volevo fare un po' per ricollegarci diciamo al tema generale che abbiamo affrontato durante tutto l'anno e anche l'anno scorso, cioè il fatto, e anche per introdurre un po' il prossimo intervento, dal tuo punto di vista personale, vivendo a Genova, tu come la senti da parte di chi conosci, che comunque ovviamente sono persone abbastanza sensibili al tema, comunque diciamo attente, come la vivi la percezione del rischio, appunto? Cioè, a questo incontro a cui sei stato ovviamente è stato molto focalizzato, però nella quotidianità, nella normalità, è un qualcosa che si vive? Cioè, nella quotidianità si pensa che può succedere qualcosa e si fa qualcosa? Cioè, mi viene in mente la banalità dell'acqua alta di Venezia, no? A Venezia, quando viene l'acqua alta, si mettono le paratie, banalmente, nel senso, è proprio un escamotage tipico, che non è neanche si parla di rischio lì, però proprio come atto pratico, come si sente nella quotidianità, e se si fanno delle cose, se tu resti a casa, cioè come la vivi la cosa? Diciamo che a lungo andare, a seguito anche di questi eventi alluvionali di questi ultimi anni, devo dire che da parte della popolazione c'è maggiore consapevolezza del rischio idrogeologico. Io personalmente mi ritengo abbastanza fortunato di abitare in una zona diciamo non a rischio come altre. Sono proprio sul Porto Antico, quindi diciamo non vengo interessato, però andando lungo il territorio, lungo i lavori che faccio, insomma, non manca mai la mia attenzione focalizzata su questo aspetto. Mi ritrovo molto spesso a chiedermi: se abitassi qua, cosa sicuramente farei, questo, farei quest'altro, coinvolgerei il condominio nel renderlo più partecipo, nel sensibilizzarlo maggiormente, nella situazione territoriale in cui si vive. Cioè, cercherei di fare iniziative specialmente, ecco, legate all'informazione e legate all'aumento della consapevolezza che ogni cittadino dovrebbe avere. Ad esempio, appunto, nel condominio. Nelle scuole, devo dire che anche nelle scuole, che poi è importantissimo, si sta facendo ormai. Quindi secondo me si sta facendo dei passi avanti in generale. Bene, almeno insomma è lunga come cosa, e è lunga. Poi diciamo, i genovesi sono stati anche molto pazienti, sono molto pazienti questi anni di lavori pubblici proprio in città. Cioè, mi rendo conto che le lamentele per il cambio di abilità, piuttosto che l'interruzione di una strada, se però appunto è legata a un contesto di rifacimento per prevenire il rischio idrogeologico, ecco, diciamo che le lamentele sono minime. E per un genovese, che di solito è sempre uno molto lamentoso, mugugnoso, si dice, insomma, il fatto che comunque la popolazione attende, non si lamenta per questi lavori che stanno facendo, è qualcosa di positivo. Certo, almeno questo sì. Sì, va bene, sì. Direi che come introduzione, comunque come ripresa un po' dei concetti fondamentali del rischio e della situazione di Genova, che comunque è un appuntamento che non manca ormai, ogni anno dobbiamo aggiornare la situazione. Sì. Sono contento, insomma, la super trasmissione mi fa piacere. No, è anche fondamentale questo, secondo me. Poi, provando ad andare a risentire le vecchie trasmissioni, vediamo anche come varia la percezione. Certo. Abbiamo un archivio storico anche noi. È indifferente, sì, insomma. Sì. Va bene, allora grazie mille. E... Saluto tutti, mi raccomando. Grazie, ciao Giamma. Ok, ciao. E noi facciamo una piccola pausa musicale e in attesa del prossimo intervento, in cui appunto approfondiremo un po' di più il tema della percezione del rischio. A tra poco. We'll be right back. Allora, eccoci tornati in trasmissione. Siamo con Emergenza Zero di Entropia Massima. Il tema oggi è Genova e i dissesti idrogeologici sono avvenuti più l'altro 2011-2014 e quello che è successo dopo. Abbiamo fatto una breve introduzione con Gianmario su quanto successo da un punto di vista geologico e idrogeologico. Adesso passiamo a parlare con Greta e le altre ragazze che hanno fatto un servizio civile che, se non mi ricordo male, finisce proprio oggi l'anno di servizio civile, vero? Sì, proprio oggi è proprio l'ultimo giorno e quindi diciamo festeggiamo tra virgolette con una trasmissione in radio per raccontarci un po' quello che avete fatto. E quindi a questo punto presentatevi direttamente voi e raccontateci almeno all'inizio Okay. Chi siete e cosa avete fatto in questo anno. Ok, certo, intanto buonasera a tutti. Io sono Greta Pastorino, sono una delle quattro ragazze qui con me questa sera. Ci sono anche Sara Garau, Giada Massini e Alice Micchini e noi abbiamo partecipato a questo progetto di servizio civile nazionale, che è un po' una sperimentazione, si chiama Corpi Civili di Pace e che aveva, diciamo, il titolo del nostro progetto era Genova e il rischio idrogeologico, prevenzione e gestione dei conflitti, quindi diciamo che aveva un po' lo scopo di prevenire e eventualmente gestire alcuni conflitti, in questo caso un conflitto di tipo ambientale che può essere generato da quello che è stato le alluvioni di cui vi ha parlato anche Gianmario prima. Quindi noi abbiamo, durante il nostro progetto, abbiamo fatto tantissime cose, molte di queste legate soprattutto al tema della comunicazione, della sensibilizzazione, dell'informazione, perché abbiamo notato che c'è anche molta disinformazione, anche e forse soprattutto nel pubblico adulto, credenze, abbiamo cercato di sfatare un po' di miti, insomma quelli che anche un po' Gianmario vi ha raccontato prima. Oh, ecco Greta, scusami, ti interrompo, così cerchiamo di andare un po' appunto con ordine per raccontare quest'anno, ma soprattutto inquadrare bene il lavoro che avete fatto, nel senso, appunto, stiamo parlando di percezione del rischio, giusto? Gestione dei conflitti, esatto. Ma soprattutto il tutto si basa sulla percezione. Intanto proviamo a definire che cosa si intende per percezione e anche, volendo, ribadiamo ancora per l'ennesima volta cosa si può intendere per rischio, poi in questo caso in particolare il rischio idrogeologico, e poi cerchiamo di fare un po' un excursus del vostro lavoro e un po' dei risultati. Quindi partendo dall'inizio, sulla percezione, quindi raccontaci un pochino che cosa significa, ecco, di cosa parliamo. Sì, certo. Allora, per quanto riguarda la percezione, abbiamo notato un po' come viene vissuto il rischio alluvionale, soprattutto con la somministrazione di un questionario sia alla cittadinanza che ai commercianti e agli insegnanti di alcuni istituti presenti nelle aree più a rischio. Diciamo che quello che abbiamo notato, un po' chiacchierando, ma poi con i dati proprio del questionario, è che più della metà delle persone intervistate percepiscono il rischio alluvionale aumentato dopo le alluvioni che ci sono state, quindi sicuramente le alluvioni del 2011 e del 2014 hanno influito sulla percezione del rischio, quindi percezione del rischio intesa proprio come consapevolezza e anche un po' timore di trovarsi in una situazione di pericolo, di rischio. Non c'erano studi precedenti di questo tipo, cioè precedenti a questi ultimi due? Sì, sono state fatte altre ricerche che non rientravano nel nostro progetto, però sì, sono state fatte ricerche dall'Università di Genova e altri progetti. Cioè, nel senso, qualcosa sul tema di simile? Prima, cioè per fare un prima e un dopo, diciamo, tu hai detto c'è una sensazione di rischio aumentato dopo, nel senso penso abbiate fatto proprio delle domande specifiche sull'aumento della percezione. Soprattutto sul dopo l'alluvione 2011-2014, quindi abbiamo proprio diviso le due alluvioni, se prima e dopo, aveva soprattutto sui danni in realtà subiti, perché poi avendo intervistato anche molti commercianti abbiamo anche cercato di capire se avevano subito dei danni. Diciamo che sicuramente rispetto agli studi fatti immediatamente dopo gli eventi alluvionali c'è un po' più di diciamo che la gente poi tende a dimenticare, quindi quello qui che volevo arrivare esattamente, quello senz'altro. Rispetto a studi precedenti abbiamo notato un po' di dimenticanza di certe cose venute, però sicuramente le alluvioni hanno influito. Greta, mi inserisco perché sentendoti appunto descrivere la parte legata alla percezione, mi viene da chiederti se avete riscontrato anche una differenza per quanto riguarda invece le fasce d'età, se c'è una percezione, una sensibilità che poi rimane in modo diverso rispetto appunto all'età delle persone. Ma riguardo alle fasce d'età, diciamo che le persone più giovani hanno chi ha vissuto direttamente l'alluvione sicuramente ha una propensione maggiore a rispondere e una sensibilità sicuramente maggiore. Chi non ha, purtroppo abbiamo anche notato che molte persone che vivono in un'area molto, molto a rischio, vicina al Bisagno, vicino a un torrente che potrebbe essere effettivamente esondare, potrebbe creare situazioni di rischio, spesso non ha risposto come ci aspettavamo, insomma. Quindi Greta, volevo chiederti una cosa. Più o meno, così a spanne, di quante persone si parla? Cioè l'area del Bisagno, si parla di un 200-500 persone o qualche migliaio, decine di migliaia di persone in quest'area così a rischio? Mi sto consultando anche un po' le altre ragazze. No, non intendevo il numero preciso, figurati. Vabbè, in generale sappiamo. Non voglio dire dati sbagliati. Vabbè, non ti preoccupare, comunque chiaramente un grandissimo numero di persone. Sì, sono decine di migliaia, no? Decine di migliaia, si parla di un intero quartiere. Il quartiere Foce, cioè insomma tutta da partire dalla Foce fino al Media, Alta Val Bisagno, insomma comunque la zona soprattutto della Foce, perché è estremamente urbanizzata. Ricordiamo che c'è persino lo stadio comunale. Sì, lo stadio costruito esattamente nell'Alveo. Nell'Alveo, quindi si parla anche di zone commerciali, commerciali che concentrano un grande numero di persone, molti centri, essendo una zona pianeggiante l'hanno ovviamente utilizzata per costruire molti edifici di aggregazione. Quindi possiamo dire che il valore è esponenziale, cioè abbiamo le persone che abitano ma poi tutta una serie di aree che vengono interessate da persone che assolutamente vengono in quella zona anche se non vi abitano, quindi sicuramente si mettono in pericolo. Noi abbiamo, durante il nostro questionario, abbiamo intervistato le persone che risiedono in Val Bisagno, quindi ci siamo concentrati su di loro anche per appunto chiedergli se eventualmente avessero subito dei danni, fossero stati risarciti e via dicendo, quindi però sicuramente con lo stadio, i centri commerciali concentrano un gran numero di persone. Ecco, quindi per ritornare un po', diciamo, al lavoro, alla costruzione del lavoro, anche per capire meglio, cioè comunque la difficoltà di fare un lavoro del genere, voi siete partite con la preparazione di questo questionario, e sì. Come è avvenuta? Da zero, nel senso che il progetto proprio nostro prevedeva l'elaborazione di questo questionario, quindi abbiamo un po' riflettuto, ragionato su quali potessero essere le domande da fare, da sottoporre alle varie persone. Abbiamo deciso in una seconda fase di somministrarlo a tre diciamo fasce diverse di popolazione, perché ne abbiamo fatto uno dedicato ai residenti delle zone a rischio, uno dedicato agli insegnanti e un altro invece dedicato ai commercianti, quindi abbiamo differenziato tra questionari e abbiamo riflettuto un po' riguardo alle domande da porre e poi quindi abbiamo noi stessi elaborato questo questionario. Ne venivamo da un'esperienza alle Cinque Terre che abbiamo fatto nell'estate precedente, dove abbiamo somministrato un questionario che invece diciamo avevamo già pronto, era già stato elaborato e lo abbiamo somministrato invece in quel caso lì ai turisti o alle persone residenti alle Cinque Terre, sempre differenziando un po' la tipologia di target e sempre comunque incentrato sul tema del rischio idrogeologico, perché anche le Cinque Terre sono state un'area molto colpita, quindi. E allora Greta, io direi che adesso possiamo fare una piccola pausa musicale e subito dopo, nell'ultima parte di trasmissione, parliamo dei risultati di quello che vi ha risposto la popolazione nel vostro questionario e che domande avete fatto. Abbiamo fatto tutto il preambolo e quindi direi che è ora di andare alla ciccia e di vedere effettivamente in dettaglio che cosa è successo. Quindi, perfetto, a dopo. A tra poco, ci sentiamo tra poco. Pochi minuti. Perfetto. I dati vogliono. Allora, eccoci di nuovo in voce. E ciao. Ciao Greta, ci hai aspettato, bravissima. Quindi ci non siamo sono fuggita. Perfetto. Allora, ci siamo lasciati con il vostro lavoro, con il vostro questionario e con i risultati che avete ottenuto. Quindi chi meglio di voi può descriverceli? Certo, allora intanto una precisazione rispetto a una domanda che mi hai fatto prima su quante persone sono esposte al rischio in quella zona, così ti do il dato esatto. Sono 120.000 persone, praticamente una su cinque è esposta al rischio. Molto più che qualche migliaia, insomma. Sì. Veramente sì, tante. Certo. Considerato che Genova ha 600.000 abitanti, quindi insomma un sesto. Esatto, moltissime, è una zona molto urbanizzata, quindi moltissime. Riguardo ai questionario, abbiamo somministrato in totale 308 questionari e, come ti dicevo, li abbiamo differenziati in base a commercianti come target, a cui ne abbiamo somministrati 150, e agli abitanti 102 e agli insegnanti 56. Quindi questi sono un po' i dati sul numero di persone coinvolte in questo sondaggio. La scelta delle categorie, immagino per esempio i negozianti, dalle immagini dei telegiornali, proprio perché erano stati quelli più colpiti, quindi più a rischio in parte, no? Sì, avevano subito, al di là diciamo del danno fisico, anche dei danni commerciali, danni legati proprio economici gravi, quindi abbiamo deciso proprio di differenziare le fasce in questo modo. Diciamo che sui commercianti, soprattutto su di loro, abbiamo avuto un'ottima risposta e un'ottima disponibilità proprio nel rispondere alle domande, perché un po' abbiamo percepito si sentissero un po' abbandonati, insomma, al fatto di essere presenti noi come Lega Ambiente gli ha dato sicuramente li ha un po' rincuorati, diciamo. Anzi, questa è una cosa che voglio sottolineare, perché noi il progetto l'abbiamo fatto presso Lega Ambiente ed è un'associazione vista molto bene, Lega Ambiente Liguria, a Genova, perché abbiamo proprio percepito una buona risposta presentandoci in questo modo. Siete molto attivi, quindi, insomma, perché siete attivi anche, diciamo, in precedenza, insomma, immagino che... Sì, certo, è un tema che è uno dei cardini proprio dell'associazione Liguria, quindi purtroppo avendo problemi legati al dissesto idrogeologico è uno dei temi di capofila proprio dei temi legati a Lega Ambiente, l'associazione Lega Ambiente. Quindi sui commercianti abbiamo avuto un'ottimissima risposta, ma comunque anche sugli abitanti, insomma. Gli insegnanti no? No, giusto, gli insegnanti è legato più a una nostra forse un po' una nostra difficoltà nel riuscire a reperirli, perché ci sono più, diciamo, problemi burocratici legati proprio al riuscire a consegnare questionari, insomma, quindi abbiamo avuto un numero un po' più basso per questo motivo, riuscire a contattare scuola e burocrazia, quindi più per quello, più per problemi burocratici. I commercianti andavamo fisicamente noi a portargli i questionari, quindi abbiamo sicuramente fatto un numero più alto. Senti, ti posso chiedere un po', diciamo, non ovviamente tutto il questionario, ma diciamo le domande fondamentali, quelle che ci vuoi riportare, di cui poi possiamo parlare, appunto, per approfondire un po' i risultati. Certo, sì, abbiamo chiesto come prima cosa se avessero, per quanto riguarda i commercianti, se avessero subito dei danni, se avessero, diciamo, questa attività commerciale nella zona esposta al rischio prima delle alluvioni e se avessero subito dei danni dall'alluvione. Poi gli abbiamo chiesto se avessero ricevuto dei risarcimenti a seguito di questi danni, abbiamo fatto delle domande molto legate anche proprio alla loro, diciamo, conoscenza del rischio alluvionale, quindi abbiamo chiesto se conoscessero il sistema di allerta meteo, se fossero d'accordo sulla chiusura delle scuole, ad esempio, in caso di allerta rossa. Ma poi abbiamo proprio, fatto delle... scusami, domande proprio, diciamo, di conoscenza del fenomeno in sé, cioè dal punto di vista del meteorologico, cioè naturale, nel senso alveo, fiume, vabbè, fiume, insomma, sì, dal punto di pezzo vuole sì, chiedere, sì, certo, sì, sì, se conoscessero i motivi anche per cui le alluvioni, insomma, i motivi legati. Una delle domande che facevamo, diciamo, nell'ultima parte del questionario era proprio sul secondo loro come mai a Genova ci fossero questi rischi alluvionali, come mai fosse così esposta, come mai ci fossero appunto frane, inondazioni, eccetera eccetera. E come li hai trovati? Mario Tozzi ha fatto qualche effetto. Diciamo che in generale abbiamo trovato risposte corrette, nel senso, dal punto di vista geologico, quindi molti rispondevano riguardo al, diciamo, al fatto che Genova sia una città molto stretta sul mare, okay, ci fossero problemi legati, insomma, quello che a... ci ha detto Gianmario prima era esatto, esatto, okay. Purtroppo abbiamo notato moltissimi casi, questo più sui residenti, di persone che rispondessero le alluvioni o le cause delle alluvioni sono legate alla sporcizia degli alvei, alla non pulizia degli alvei. Questa è stata una, diciamo, delle risposte principali che ci hanno dato, quindi abbiamo avuto delle risposte molto buone, però anche moltissime persone che hanno risposto invece riguardo alla pulizia degli alvei, e quindi che comunque vanno puliti, i problemi reali, sì, sì, diciamo, ricordiamo, quelli legati a quelli che di cui parlava Gianmario, quindi un po' la mancanza di pulizia dei versanti e problemi più legati alla geomorfologia sono stati meno riscontrati. Beh, quindi insomma, in generale, cioè, l'aspetto che forse, sentendo la descrizione appunto delle domande che avete somministrato, mi viene da chiederti è, c'è stata una risposta di interesse e soprattutto avete avuto la percezione che ci fosse anche un po' la necessità di un racconto, cioè di essere portati dentro al fenomeno. Uno ovviamente, se non si occupa di queste tematiche, ha una vaga idea, risponde in un modo o nell'altro al questionario, ma forse ci sono tanti aspetti che vorrebbe sapere. È stato un momento, è stata un'occasione per approfondire, o invece in questo caso è rimasta solo per quanto riguarda appunto l'intervista col questionario? Diciamo che in generale, come vi dicevo prima, abbiamo avuto una risposta positiva disponibile nelle risposte, però come numero di persone che fossero così particolarmente interessate ad approfondire, molto poche. Lo abbiamo percepito di più nei residenti, nelle persone, quindi non nei commercianti, forse è legato anche al fatto che i commercianti li abbiamo intervistati sul luogo di lavoro, quindi erano sicuramente più impegnati. Quando abbiamo trovato delle persone residenti disponibili a parlare con noi, allora sì, in quel caso, per quanto riguarda i residenti, abbiamo trovato persone intanto molto contente di quello che stavamo facendo, quindi sicuramente una risposta positiva in quel senso, e poi anche molto curiose o stupite anche del fatto di scoprire alcune cose che magari non di cui non si ponevano neanche il problema. Questo in realtà lo abbiamo percepito di più durante le passeggiate di quartiere, perché nell'ambito del nostro progetto, al di là della parte legata ai questionari, abbiamo organizzato passeggiate di quartiere.